140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco la protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. The Yard, Milano. Debutta al cinema con Michele Placido mentre esce il suo nuovo album. Si intitola Combattente. Così com'è lei, Fiorella Mannoia. A volte mi sento un po' prigioniera di me stessa, cioè nel senso che nelle mie pagine Facebook, se io non mi esprimo, cominciano. Perché non dici niente? Ah, adesso non dici niente. Adesso aspetta, oppure o in modo simpatico o in modo antipatico. Vogliono per forza sentire la mia opinione. A volte dico, ma io faccio la cantante, non è che sono obbligata a commentare tutto quello che succede in Italia. Però un po' me lo sono voluto. Perché, diciamo la verità, quando poi commenti, ti esponi, esprimi le tue idee, poi le persone si aspettano che tu lo faccia. In realtà io lo faccio poi alla fine, lo faccio perché, ti dico la verità, certe volte scrivo, poi sto per inviare e dico no dai, stavolta non scrivo, non mi importa, dai, chiudo e cancello. Poi da un po' rivado e dico no, io lo devo scrivere perché non ce la faccio, sta zitta, provo. Alla fine, insomma, dopo un po' io vado, prendo e clicco e mando. Poi succede di tutto, perché poi quando vado mi mettono sui giornali, a volte travisano quello che dico, a volte ricevo degli insulti che non puoi immaginare. Però in questa lacrima infinita, come dice la canzone, c'è il senso della mia vita, io non posso farne a meno. Lottare è una regola che cambia tutto l'universo, perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso. E questa lacrima infinita c'è tutto il senso della vita. In questo album hai anche raccontato storie personali, i tuoi sentimenti, hai aperto il cuore, addirittura hai raccontato delle domeniche pomeriggio con tua madre, che è un ricordo che in tanti di noi hanno del tempo che non si ha più con i propri genitori. Perché invece questa finestra sul tuo di cuore? Nel caso di Ogni Domenica con te, i miei amici, collaboratori, Bungaro e Cesare Chiodo, con i quali collaboro ormai da anni, conoscono la mia vita, sanno tutto di me. Sapevano anche che io tutte le domeniche stavo da mia madre, cioè era difficile che saltassi una domenica. Io non andavo in vacanza per stare la domenica con mamma, per cui al massimo mi allontanavo per 15 giorni, ma una domenica potevo saltare e poi ritornavo, perché mamma era anziana e sapevo che quando non ci andavo mi cercava. Insomma, era un desiderio, era un'esigenza che avevo di stare con mia madre. E questo lo sapevano perché, come dicevo prima, conoscevano la mia vita. E quando è arrivata questa canzone l'ho presa proprio come un regalo. È stato un grande regalo che mi hanno fatto. Avrei dovuto cantarla prima, perché poi l'ho cantata dopo ed è stato difficile, ci ho messo una giornata a cantarla perché ogni tre frasi dovevo uscire, perché purtroppo mamma se n'è andata a luglio, per cui la canzone era arrivata prima e poi insomma è successo quello che è successo. Insomma, è stato difficile, molto difficile riuscire a cantarla, devo dire la verità, ci ho messo una giornata intera. Però ecco, difficilmente parlo della mia vita privata. È difficile che io esterni qualcosa che riguarda proprio i miei affetti, però in questo caso insomma lo devo fare, lo voglio fare perché c'è una canzone che questi miei affetti li ha raccontati. Hai parlato anche di un argomento di cui si parla ancora troppo poco, che è quello della violenza psicologica sulle donne. È difficile spiegare a una persona che cosa si subisce, perché quando dici una persona non mi schiaccia, non mi rende insicura, La gente t'ascolta come dice, vabbè, ma non ti ama? Sì, mi ama, però mi schiaccia, però dice di amarmi, però non mi permette di esprimere, di essere me stessa. Qui è difficile poterlo spiegare. Questa canzone lo spiega molto bene, cioè è un personaggio che subisce una violenza di un uomo che le sta accanto, che però la condiziona, la fa sentire sempre inadeguata, sempre non all'altezza, sempre dipendente. Perché poi alla fine è questo che in fondo questa tipologia di uomini vuole la dipendenza. Questa donna invece riesce non solo a venirne fuori, ma riesce a sublimare tutto questo con il pensiero che guardandosi indietro quest'uomo non le ha lasciato nessuna conseguenza. Non mi ha mai lasciato niente, non ho nessuna... Fammi andare avanti, non ne voglio più sentir parlare. Questo è quello che si auspica sempre le donne riescano a fare in casi come questi. C'è più ansia in questo momento per il debutto di un album o per il debutto in sala di 7 minuti? Ho tre debutti in questo momento di cui sono in ansia: il debutto del disco, il debutto del 7 minuti e il debutto della tournée. Però questo mi fa stare bene perché è vita, mi sono capitate in questi ultimi tempi cose inaspettate, come fare un film con Michele Placido in un ruolo di coprotagonista. Michele è contento, io mi sono sentita a mio agio, il film è molto bello, per cui staremo a vedere che succederà, spero che piaccia anche al pubblico, però tutte queste prove ti rendono viva. Ecco, non... mi sembra assurdo anche che alla mia età io faccia tutte queste cose, non ho mai lavorato tanto come in questo periodo. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Fiorella Mannoia. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter, @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.